Sarà necessario il ballottaggio domenica prossima per conoscere il candidato sindaco del centro-sinistra a Cinisello Balsamo. Nessuno dei cinque candidati, infatti, ha raggiunto il 50 più 1% dei voti necessario per passare al primo turno. Al ballottaggio vanno Siria Trezzi, candidata proveniente da SEL, ma sostenuta da un appello civico e da molti amministratori locali, che ha ottenuto il 37,78%, contro Luca Ghezzi, candidato di Area Cattolica, sostenuto dal sindaco uscente Daniele Gasparini, da Fabio Pizzul e da una parte del Partito Democratico Cittadino. Fuori dai giochi invece Giuseppe Sacco, terzo col 13,3%, Andrea Ronchi quarto con il 10,3% e Giuseppe Calanni fermo al 2,7%. Si apre dunque una settimana intensa per il centro-sinistra Cinisello Balsamo, anche alla luce di alcune polemiche che hanno caratterizzato gli ultimi giorni prima del voto. Decisivo per il risultato finale sarà il dato della partecipazione, significativo al primo turno con 3.198 votanti e come si ridistribuiranno i voti dei candidati eliminati. Il PD cittadino, infatti, è animato da anime diverse, che quasi certamente non appoggeranno Ghezzi in maniera compatta, determinando una sfida che probabilmente si deciderà per pochi voti di differenza. Martino Iniziato, lacittadicinisello.it per Popolare Network.